attesa dell'accordo. L'accordo di cui parla oggi in prima pagina anche Le Monde, che è proprio due grandi temi: uno, quello che vi ho detto, è l'intervista in esclusiva al Presidente della Repubblica, l'altro è il tema dell'ambiente. E a proposito di Durban, leggo invece, cito quello che poi è un passaggio del nostro ospite che vi presento immediatamente: l'accordo di Durban è positivo se lo guardiamo con gli occhi degli uomini, negativo nella prospettiva del clima. Allora, buongiorno a Luca Mercalli, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Luca Mercalli, meteorologo, climatologo, sapete che è anche presidente della Società Meteorologica Italiana. Allora, cosa vuol dire? Dividiamo un po' questa frase: è positivo se lo guardiamo con gli occhi degli uomini. È positivo perché gli uomini sono sempre lenti a prendere decisioni complesse internazionali, insomma è come l'assemblea di condominio, non ci si mette mai d'accordo, e questa conferenza di Durban porta al numero 17, è dal 1995 che si tiene la conferenza delle parti della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, e si è sempre portato a casa molto poco. Ci sono ovviamente mille problemi, bisogna mettere d'accordo tutte le nazioni del mondo, quindi si tratta in fondo del più grande accordo che l'umanità abbia mai sottoscritto, però i risultati sono sempre molto scarsi. Ecco, la complessità effettivamente di questo tipo di incontro l'abbiamo anche sottolineato in settimana, chi ha avuto la fortuna per lavoro, come nel mio caso, di partecipare ad alcuni di questi incontri rimane sbalordito dalla quantità di nazioni da un lato, ma lo sappiamo, ma di interessi, di associazioni. Quindi, insomma, accordo molto difficile per definizione, non a caso tra l'altro qualcosa viene sempre trovato nell'extra time, nel fuori tempo. Questo per la parte uomo. Però lei dice nella prospettiva del clima non va bene. Possiamo essere soddisfatti che non si sia chiuso con un fallimento totale, ecco. Però dov'è che non funziona è che noi ci confrontiamo con le leggi fisiche che governano il mondo reale. Queste non stanno ad aspettare le decisioni degli uomini, i negoziati, gli accordi, i sotterfugi, gli sconti che ci si fa uno con l'altro. Ecco, le leggi fisiche lavorano indipendentemente da noi. E noi ormai stiamo sollecitando il sistema climatico da oltre 150 anni, 200 anni, immettendo i gas a effetto serra prodotti dalla combustione del carbone, del petrolio e del gas, e gli effetti cominciamo a vederli. Il riscaldamento è in atto, i 13 anni più caldi della storia si sono tutti verificati dopo il 1996. Insomma, la scienza dice: fate presto, perché è come una malattia. Non è che se il medico ti dice mettiti a dieta, dici no, ma aspetta ancora un annetto perché voglio ancora godermi un po' di lasagna al forno e poi ci penso il prossimo anno, via, la dieta la comincio fra un anno. E intanto la malattia va avanti, non aspetta te, e qui è la stessa cosa. Ecco, no? La malattia in questo caso si misura spesso, almeno si tende a fare, in termini di gradi. Si è parlato a lungo di un grado di aumento, poi due, ormai si ragiona su misure maggiori. Ma sono appunto che grado invece di rispondenza scientifica c'è nell'affermare che si viaggia verso la soglia di 3-4 gradi? La rispondenza c'è assolutamente, anche perché ormai c'è almeno un fatto che è positivo, che in queste conferenze tutti i paesi, tutti i governi del nostro globo ormai non hanno dubbi che il problema esista, quindi non ci sono più quegli scetticismi che ancora un po' di anni fa così dominavano il dibattito. Ormai il fatto che il cambiamento climatico sia in atto e rappresenti un pericolo enorme per la stabilità dell'ecosistema e dell'umanità entro i prossimi decenni lo considerano tutti come un dato di fatto scientificamente provato. Quindi più noi inquiniamo senza porre dei limiti e senza evolvere rapidamente verso le energie rinnovabili che non rilasciano gas serra, e più questa temperatura crescerà. Quindi la soglia dei 2 gradi, che sarebbe stata mantenuta se gli accordi fossero stati più efficaci già negli anni scorsi, viene considerata per persa, cioè quindi ormai si viaggia proprio verso i 3, forse 4 gradi, considerando di lasciare correre l'economia così come sta andando ora, in particolare con i paesi emergenti che consumano molto carbone, producono molta CO2. Ho letto poco fa che pure il Canada è uscito dal protocollo di Kyoto, proprio una dichiarazione di ieri, il ministro dell'ambiente canadese ha detto no, noi non ci stiamo, da un punto di vista economico non ci conviene, quindi anche un grande paese con una forte sensibilità ambientale sta cambiando rotta. Ecco, una rotta che peraltro faceva un po', almeno in Nord America, da contrappeso alla posizione americana. In una battuta, la malattia è, come dire, conclamata e chiara. La terapia invece, Durban porta qualche novità su questo fronte o no? Allora, Durban porta a casa una serie di accordi minori importanti comunque per far funzionare gli accordi internazionali che comunque vanno avanti da decenni e consentono comunque di mantenere il programma della riduzione delle emissioni e poi promette che entro il 2015 vi sarà un nuovo accordo vincolante e ci si sta lavorando, vedremo, è sempre il fatto di dire ci si prende dell'altro tempo, quindi speranzoso, sicuramente un risultato, ma speriamo che il clima non sia più rapido di noi. Grazie a Luca Mercalli di essere stato con noi questa mattina, insomma il 2015, ogni volta che sento il 2015 io penso all'Expo, dalla prospettiva milanese, ma non solo, grandi progetti, l'accordo di Durban, chissà quale altra scadenza per questo anno, appunto 2015, già così carico di impegni. Adesso sentiamo insieme invece le informazioni sul meteo, visto che abbiamo parlato in questo blocco della neve che non arriva, chissà che non ci sia qualche precipitazione in avvicinamento, e poi cambiamo decisamente pagina e ci spostiamo a Torino. 24 mattino. 8 e 36 minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli questa mattina al microfono, da Viola Bottoni in assistenza, da Peter Bescapè in regia. A Torino, come vi ho anticipato, Torino dove peraltro oggi è un giorno importante, cruciale per la trattativa Fiat, ma non è di questo che parliamo in questo momento, sicuramente lo faremo nel corso dei giornali radio, ma per tornare su quanto accaduto alla Continassa quartiere appunto Torino, spedizione punitiva, l'avrete sentito ampiamente, una sedicenne che accusa una violenza che avrebbe appunto subito in un campo a nomadi e che dopo dice no, era un falso, appunto ho mentito, ho accusato quei nomadi per paura. Insomma, tutto questo però ripropone anche oggi sui titoli dei giornali in edicola, insomma ci sono parole gravi, parole importanti, ve ne cito uno, pogro razzista, il termine pogrom fa accaponare la pelle, soprattutto, consentitemi, in un paese come il nostro, in una città come Torino. Allora, due ospiti per parlarne questa mattina, la dottoressa Carla Osella, che è presidente dell'Associazione Italiana Zingari Oggi, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti. Asher Colombo è professore, docente di sociologia generale e sociologia della devianza all'Università di Bologna, grazie di essere con noi, buongiorno. Buongiorno. Allora, dottoressa Osella, lei in quel campo ci va, lo conosce, ieri c'è stato, insomma, che cosa ha visto ieri in quel luogo? Chi sono queste persone? Come hanno reagito? Come reagiscono a distanza ormai di più di 48 ore a questi eventi? Ma intanto i locali, perché loro vivevano in questi locali fatiscenti da alcuni anni e parecchie volte il comune li aveva allontanati perché era pericoloso, ma loro continuavano a ritornarci. Intanto c'era ancora puzza di bruciata, dopo ormai erano passate parecchie ore e si sentiva che c'è stato un grande incendio. Tutta la struttura è bruciata, parte del tetto è anche crollata. Ecco, quante persone ci sono, c'erano e ci sono in quella... Erano una trentina di persone, non di più, 30 a 40 perché oscillavano, però ieri erano rimaste in 19 persone più un bambino di pochi mesi. Ecco, lei ci ha spiegato che c'è, come dire, un luogo che è stato soggetto a interventi, ma queste persone sono sempre le stesse che ritornano o è uno di quei punti tappa che in fondo ci sono nelle città e non solo italiane? Ma allora, intanto questi sono rom rumeni e sono molto diversi dai rom tradizionali, quelli che noi definiamo storici. Per quale motivo? Perché loro rimangono magari in Italia alcuni mesi, poi ritornano in Romania un mese o due, poi ritornano. C'è questo pendolarismo tra la Romania e l'Italia, perciò a volte troviamo le stesse famiglie, a volte invece ritornano e rimangono in Romania o altrimenti emigrano in altri paesi come la Francia. la Germania, eccetera. Perciò ecco, non sempre sono gli stessi. Lei che conosce questo territorio, appunto, in cui opera e lavoro, ci sono dei precedenti, al di là della denuncia, appunto, poi rivelatasi falsa, che hanno creato la tensione tra le comunità, tra i rom che ci ha descritto e gli italiani del quartiere? Ma a questi limiti, a questi livelli no, però no, anche inferiori evidentemente. Sì, un anno e mezzo fa due ragazze rom, tra le quali una era una nostra mediatrice culturale, era incinta ed è stata aggredita in piazza da un ragazzo con un bastone da baseball. L'ha picchiata sul ventre e poi lei ha abortito. Perché è stata picchiata questa ragazza? Ma non si riesce a capire se la ragazza era andata, intanto era sulla strada, può darsi che abbia, lei diceva noi siamo passati, lui è sceso perché dalla finestra ha urlato brutte zingare bastarde, può darsi che abbia suonato il campanello, lei questo non l'ha detto, però sta di fatto che il ragazzo è stato messo agli arresti domiciliari e poi per fortuna, e lei stessa lo diceva, preferisco avere che il mio bambino sia morto senza essere stato picchiato, infatti poi dopo parecchio tempo siamo riusciti a sapere dalla medicina legale che il bambino era morto già il giorno prima, però intanto lei ha subito questo atto di violenza e ecco, al funerale non c'era assolutamente nessuno, eravamo una ventina di persone e non c'era nessuno, nessuno ha espresso solidarietà ed è stato anche un passaggio molto difficile. Ecco, ci dica che cos'è la Cascina Continassa in termini di quartiere, chi ci abita, che cos'è? Allora, intanto la Cascina è una cascina che fa parte del quartiere Vallette, uno di quei quartieri dormitorio venuti su negli anni 60 con lo sviluppo della Fiat a Torino. È una vecchia cascina che doveva essere acquistata dalla Juventus perché ne vorrebbe fare un centro. Perché siamo dietro lo stadio nuovo. Sì, sì, certo, okay. È proprio vicinissimo allo stadio, però in questo momento è ancora proprietà del Comune di Torino. Alcuni anni fa veniva utilizzata dalla San Vincenzo come magazzino per i mobili vecchi ed è proprio ormai, ed era una bellissima struttura perché è proprio bella e nessuno l'ha mai aggiustata e di conseguenza è proprio, sono dei locali fatiscenti ma sono molto grossa. E i rom, come in altre situazioni, cercano sempre di poter utilizzare quei locali che nessuno va a dare fastidio. Ecco, a proposito di fastidio, i rom che ci diceva di fatto sono rom rumeni, per lo più in transito, cioè non sono comunità permanenti o che ritornano nello stesso luogo, se abbiamo ben capito. Sì, a volte sono sempre, se questo gruppo è alla Continassa andrà via e manderà dei loro parenti sempre alla Continassa. Saranno sempre su per giù, ecco, anche al paese di origine. Dottoressa Osella, ma lei dice, insomma, dalla sua descrizione sembra che sia un quartiere di cattivi contro i rom. È questo che pensa? No, in maniera assoluta. Intanto Torino direi che non è razzista, ci sono elementi razzisti a, certo, Torino, ma dire, è sempre ovunque. Stata una città solidale e da anni, quando anche noi si legge sui giornali o altre persone della nostra associazione che lavorano in altre città, veniamo a conoscenza di questi allontanamenti continui da parte delle forze dell'ordine, Torino è sempre stata molto accogliente, non ha risolto il problema in maniera radicale per molti motivi, però Torino è ancora una città accogliente per gli extracomunitari e anche nei confronti dei rom e dei sinti. Torniamo subito con lei, dottoressa Osella. Vorrei chiedere al professor Colombo, parlare di pogrom oggi è eccessivo a suo avviso o è legittimo? È difficile dirlo, chiaramente alcuni elementi ci sono. Io sono sempre rimasto stupito quando si guardano i dati delle indagini di opinione pubblica, si rimane molto stupiti dalla grande differenza che esiste tra nell'opinione pubblica, l'enorme ostilità, l'odio che c'è nell'opinione pubblica verso gli zingari non è uguale, è del tutto separato anche dal tema dell'immigrazione. Quindi furti, parliamo di furti, reati in genere, mi sta dicendo i numeri non tornano? No, sto dicendo che c'è un'ostilità indipendente da qualsiasi fattore. sì, indipendente da qualsiasi fattore, è proprio una ostilità irriducibile, diciamo così, quella che c'è, un odio quello che c'è nei confronti di Zingari, perché il fatto stesso che questa ragazza abbia mobilitato questo lessico, che è abbastanza appunto diffuso, no, nel discorso pubblico, immediatamente denota proprio come nei confronti di questo gruppo si concentrino appunto atteggiamenti di forte ostilità, atteggiamenti di odio che non ha uguali. Voglio dire un'altra cosa, se mi permette, mi ha colpito molto in questi giorni sui giornali il discorso, appunto c'è stata questa spedizione punitiva, poi si è scoperto che invece non c'era stata questa violenza. Mi veniva da dire, beh, ma se la violenza ci fosse stata, questo avrebbe giustificato la spedizione. Certo, lei dice. Ecco, a proposito, giustissima sottolineatura che condivido in pieno, ma le faccio una questione: che ruolo svolgono i media nella costruzione del rancore o addirittura nell'esplosione dell'odio? Ma io non so, sono sempre stato uno di quelli che dice che naturalmente i quotidiani fanno il loro mestiere e cercano di vendere i giornali, ci sono dei problemi che sono stati riconosciuti dagli stessi operatori. L'altro giorno la Repubblica appunto ha pubblicato questo articolo in cui diceva il titolo che abbiamo fatto l'altro giorno era sbagliato. Era sbagliato, infatti. Probabilmente quello che come dire, i giornali esagerano e soprattutto hanno questa tendenza a etichettare. Prendiamo il caso, per esempio, dei reati: spesso viene messo che l'autore, no, è la nazionalità dell'autore, raramente viene messa la nazionalità della vittima. Ora, chi studia i reati sa che la stragrande maggioranza dei reati avviene all'interno dello stesso gruppo, cioè quando uno straniero commette un reato, nella stragrande maggioranza dei casi la vittima non è un italiano ma è un altro straniero. Si consuma all'interno della stessa comunità. Asher Colombo, le chiedo di restare un momento con noi, certo. Abbiamo gli aggiornamenti per chi è in viaggio e poi torniamo per parlare appunto di questa vicenda. Sova Ponticelli, una lunga scia di violenza, racconta questa mattina Anna Maria Merlo in un articolo appunto sul decennio di inclusione dei Rom pubblicato dal Manifesto. Già, perché questo è, se, appunto stando alla indicazione dell'Unione Europea, il decennio di inclusione dei Rom, un'iniziativa avviata nel 2005, si concluderà nel 2015, la terza volta oggi che arriviamo a questo 2015. Professor Colombo, da questo punto di vista, al di là dell'iniziativa stessa dell'Unione, che come spesso accade credo non sia molto diffusa e nota nell'opinione pubblica, ma esiste un percorso di inclusione culturale dei Rom in Italia? Ma sì, io credo che siano state fatte le esperienze. Quello che mi dicono, fra l'altro, è che il caso di Torino in realtà sia uno di quelli, dal punto di vista delle politiche di inclusione, come dire, relativamente più avanzato. Il problema è che le politiche di inclusione devono avere alcune caratteristiche, e una è che devono essere coordinate tra di loro, non frammentarie, e siccome i fattori di esclusione nel caso dei Rom sono molti e coincidono, si sovrappongono, c'è quella che riguarda la casa, l'abitazione, il lavoro, la scuola, spesso questi interventi sono magari frammentari, quindi si rivolgono solo a un singolo aspetto e trascurando gli altri, quindi faticano a ottenere dei risultati come quelli che sono stati ottenuti in città dei paesi del nord Europa, penso per esempio al caso della Svezia. Però c'è un altro problema, è che questi interventi sono estremamente costosi e spesso, certo, vanno anche di fronte a, come dire, possono affrontare livelli di fallimento o di deriva o solo di parziale successo. E quindi in un momento come questo spese così, tant'è vero che sono socialmente difficili da sostenere in un momento come questo. C'è un bel rapporto che è stato pubblicato a cura di Pietro Cingolani per la Fondazione Fieri, che è uno giovane studioso che si sta occupando di questi temi, che mostra un pochino questi aspetti. Il problema è che le amministrazioni comunali devono anche, appunto, per fronteggiare l'ostilità nell'opinione pubblica, che mi verrebbe da dire, insomma, non capisce che appunto questi interventi sono costosi, deve anche adottare un basso profilo, e quindi è un po' un serpente che si mangia la coda, sostanzialmente. È difficile, dovrebbe essere affrontato in modo integrato anche a livello nazionale, e naturalmente appunto sono interventi che richiedono esborsi notevoli e impegno notevole. È chiaro, insomma, sono interventi costosi che in momenti soprattutto come questi, che poi sono anche quelli più idonei a, come dire, a produrre le azioni appunto violente, incontrollate come quelle che abbiamo visto l'altro giorno a Torino, è anche difficile spiegare che si fanno degli investimenti in spese sociali laddove poi giustamente molti ti vengono a dire non si spendono per tante altre cose, parliamo di pensioni eccetera eccetera, è inutile fare l'elenco. Grazie ad Asher Colombo. Dottoressa Osella, in conclusione, ecco, questo tipo di interventi abbiamo sentito costano, siamo all'interno di un percorso decennale dal punto di vista del suo osservatorio, lei lavora da anni su queste tematiche, certo. Siamo comunque, come dire, avviati in qualche direzione o stiamo vagando un po' nel buio? Ma intanto è vero che i costi sono grandi e il problema è che bisognerebbe veramente che quando si lavora sulla scuola si lavori anche sui genitori che mandano i bambini a scuola, e purtroppo i progetti sono sempre frammentari perché sono progetti magari che uno può lavorare su 9 mesi, 12 mesi, e poi sono progetti che non vengono mai rifinanziati. E poi lei stessa diceva che queste comunità vanno e vengono in questo caso tra Italia e Romania, per esempio. Sì, per i rumeni sì, sì, per gli quindi altri voglio dire. No, no, certo, però appunto ci sono delle complessità anche nella natura proprio del tipo di vita. Del gruppo, certo, e poi ci sono anche dei Roma che non desiderano affatto inserirsi, perché nessuno ne parla mai, però c'è della gente che è disponibile a inserirsi, ma dato che hanno anche molta difficoltà ad esempio a inserirsi nel mondo del lavoro, certo. Bisogna proprio fare un accompagnamento che dura degli anni, hanno la mentalità legata alla produzione molto diversa da quella degli italiani. Perché loro hanno una vita sociale veramente differente ed è quello che spesse volte li allontana dalla società maggioritaria. Non è giusto perché facciamo ancora molta difficoltà ad accettarli nella loro diversità, però intanto se vogliono entrare nel tessuto sociale italiano di altri paesi europei si devono anche adeguare, perché è vero che noi dobbiamo sempre parlare di diritti, che è una delle prime cose, è una cosa basilare, però poi dai diritti bisogna passare ai doveri, perché altrimenti noi fra 50 anni ci troveremo con la stessa situazione. Ecco, lei che sicuramente non può essere accusata di, diciamo, di avercela coi Rom, da questo punto di vista, come rispondono, anche se è difficile sempre parlare di gruppi, ma insomma, come risponde la comunità nella sua esperienza Rom al tema appunto dei doveri che lei giustamente ha sottolineato? C'è alcuni gruppi, specialmente gruppi di sinti che sono molto più inseriti dal 1005-1006 che sono in Italia, perciò hanno un inserimento molto diverso. Gli altri che sono più abituati a vivere isolati hanno proprio hanno più difficoltà. Hanno difficoltà perché loro stanno vivendo l'ostilità da parte della gente e tendono sempre a scegliere, anche quando si comprano i siti privati, a scegliere zone lontane dalle abitazioni, e questo non è positivo perché così riescono, vivono sempre solo tra loro, hanno bisogno anche di modelli culturali. Insomma, di certo non è un percorso favorevole a quell'inclusione di cui abbiamo parlato. Grazie a Carlo Osella, ad Asher Colombo. Siamo in conclusione questa mattina, alle 8.54 e 40 secondi, ancora un grazie in regia a Peter Bescapè, a Viola Bottoni in assistenza, subito GR24, poi naturalmente l'appuntamento con Oscar Giannino. Buona giornata a tutti.